already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Hello, I'd like to vote for president, governor, and anything that will take money away from our parks and libraries. Cittadino Homer va a votare. Non riesce a entrare nell'urna. Ecco. One of those electronic voting dealies. Che bel computer. One vote for McCain. Thank you. Un voto per McCain. No, I want to vote for Obama. Io vorrei votare per Obama, dice Homer. Come on, it's time for a change. Three votes for McCain. No, no, no! Six votes for President McCain. Hey, I only meant one of those votes for McCain. This machine is rigged! Must tell President McCain! This doesn't happen in America! Maybe Ohio, but not in America! Beh, non abbiate paura, non andranno proprio così le cose, almeno ce lo auguriamo anzi a tutta America, perché oggi è il giorno zero e insomma, se considerate che questo programma è cominciato il 5 febbraio 2007, prima ancora che si candidasse Barack Obama, quindi non si sapeva neanche, il mondo ancora non sapeva con esattezza chi fosse questo novello senatore dell'Illinois, che pochi giorni dopo l'inizio di Jefferson Ming, una settimana dopo esattamente, decise di porre la propria candidatura. 21 mesi abbondanti, una lunga storia che oggi appunto arriva alla sua data zero, perché stanno votando. I primi seggi elettorali hanno aperto alle 5 mattina per il voto presidenziale e vi ricordo per altri voti sostanziali. Oggi l'America non sceglie solo il presidente, sceglie anche il suo futuro, in quanto vota la sua Camera e un terzo del Senato. Domani l'America avrà una forma di governo diversa o comunque rinnovata rispetto a quella che ha oggi, e comincerà un cammino assai diverso. Hanno votato anche Barack Obama questa mattina a Chicago, con un certo scandalo, soprattutto gli osservatori conservatori hanno osservato che nello stesso seggio dove ha votato Obama, poco dopo è arrivato a votare William Ayers, Bill Ayers, l'ex terrorista dei Weathermen, con le connessioni con il quale sono state più volte attaccate da parte dei repubblicani. Pare che addirittura Farrakhan voterà nello stesso seggio, in quanto residente nella stessa area di Chicago. Ha votato anche Joe Biden nel Delaware. Per ora non sono arrivate le immagini di McCain né di Sarah Palin, ma McCain è facile che voterà più tardi, perché sta dall'altra parte dell'America dove il fuso è diverso. Infatti è rientrato anch'egli a casa sua, a Phoenix, Arizona, nell'area, e Sarah Palin è in Alaska, e dall'Alaska, si sa, le notizie ci mettono sempre quel certo tempo ad arrivare. Ha votato anche un signore che nel corso di questa campagna elettorale ha contato molto un po' in tutte le direzioni, ha contato molto perché fa sempre come gli pare ed è un terribile egocentrico. Del resto, come non essere egocentrici se hai vinto per due volte le elezioni presidenziali americane? Nella fattispecie non è George W. Bush, che invece ha votato due settimane fa dal suo ranch nel Texas e vive in queste ore una solitudine, devo dire, penosa. Non ne parla nessuno lo chiama a partecipare a nessuna iniziativa elettorale e la situazione sta diventando seriamente imbarazzante. Ma sull'handover, sul passaggio di consegne, cominceremo naturalmente a parlare domani. Invece ha parlato Bill Clinton, che sulla porta si è concesso, come fa sempre lui, per breve tempo. Giusto una domanda, ragazzi, ai reporter fresca di 5 minuti fa, ascoltiamo Clinton. I think that's going to be the fundamentals significance, and it, our party tomorrow will wake up with an enormous opportunity, but an enormous responsibility, a profound responsibility. Parla del 5 novembre, del fatto che sia fiducioso una vittoria dei democratici, ma del fatto che vincere è una gioia che va festeggiata, ma la responsabilità è poi quella con cui fare i conti. We've got to restore our standing in the world for peace and freedom and prosperity, and it's immensely exciting. It'll be full of energy, but our new president and the Congress. C'è tanto da fare, c'è da restaurare la reputazione della nostra nazione nel mondo, c'è da rimettere in piedi una situazione economica, c'è da lavorare con grande serietà, quindi se vinceremo noi, se vinceranno i democratici, se i democratici avranno il controllo della Casa Bianca, del Congresso e del Senato, sarà bene festeggiare, ma per poco tempo, e poi mettersi a lavorare, perché molto ci si attende dal Presidente degli Stati Uniti e naturalmente anche dalle strutture al suo servizio. 349-238-6666, ci piacerebbe sapere anche da voi cosa vi aspettate da un nuovo Presidente degli Stati Uniti e magari quale Presidente degli Stati Uniti vorreste vedere domani alla Casa Bianca, ma soprattutto il perché, le motivazioni, la scelta. Ci credete alla idea del cambiamento? È un concetto che vi ha suggestionato, vi ha convinto, vi ha conquistato, ovvero siete scettici, pensate che la grande nazione, il grande paese sia destinato a proseguire nel solco già tracciato. Intanto tutta America va a votare, da tutta America arrivano una pioggia di immagini straordinarie, l'aspetto visuale, l'aspetto di condivisione di questa elezione ne fa davvero la madre di tutte le campagne elettorali, la madre di tutte le elezioni. L'aspetto tecnologico è formidabile, credo che siamo solo all'inizio di una giornata memorabile. Vi ricordo che questa sera va in onda dalle 10 alle 12, dalle 22 alle 24, una edizione speciale di Jefferson Ming, così sull'avvicinamento, no, all'apertura delle urne, in avvicinamento agli exit poll. Poi per tutta la notte Radio 24 trasmetterà una edizione speciale dedicata interamente ai risultati delle elezioni, e domani mattina saremo ancora qui a fare i conti, a cercare di capire quello che è successo, questa pagina di storia che si sta scrivendo, quello che succederà a Chicago, al Grand Park, dove si aspettano 2 milioni di persone per Barack Obama, quello che succederà in Arizona, dove McCain sta aspettando di vedere se la sua sete di rimonta, il suo coraggio da guerriero fino all'ultimo giorno, ha ottenuto i risultati sperati. Questa è la storia del 4 novembre 2008. La storia di una elezione veramente destinata a segnare il futuro dell'America e non solo. Tra poco comunque andiamo a Chicago. Questo è Martin Scorsese, The Departed, no? La chitarra di Roy Buchanan, cosa, quale pasta più americana di questi suoni, pronti per collegarci dopo la nostra ormai leggendaria sigla con Chicago. Le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. Mario Platero è già sul posto, ha viaggiato a Chicago per vivere quella che, da quello che si capisce già dai primi collegamenti televisivi, ha l'aria di una fatale giornata storica, comunque finisca, anche perché da una parte c'è agitazione, c'è timore, quali potrebbero essere i contraccolpi di una sconfitta di Obama, dall'altra c'è la voglia di festeggiare, ma sentiamo da Mario che aria si respira, eccoti Mario. Un'aria straordinaria qui a Chicago, devo dire sotto ogni punto di vista. Chicago, the Wind City, la città fredda, ventosa, aperta davanti al lago, oggi è tiepida, una giornata bellissima che ovviamente prometterà bene per questa sera, se davvero, come dicono i pronostici, Barack Obama vincerà queste elezioni e farà questa grande festa pubblica qui a Grant Park. Vedo davanti a me questi enormi tendoni già costruiti con il lago appunto sullo sfondo per celebrare il ritorno del Partito Democratico, ritorno direi in tutti i sensi sul piano simbolico. Qui a Grant Park ci fu nel 68 la polizia che sparò contro i pacifisti, una situazione non diversa da quella in cui ci troviamo oggi. Allora c'era un presidente democratico, Lyndon Johnson, impegolato fino in fondo in una guerra impopolare. In Vietnam il Partito Democratico soffrì e in qualche modo si sgretolò qui proprio a Chicago 40 anni fa a Grant Park, e oggi ecco che invece sono i repubblicani a essere impegolati in questa guerra in Iraq, e dunque per Obama sul piano simbolico ci sarà la possibilità davvero di chiudere un ciclo storico. Mario, si è capito che cosa succederà negli eventi su quel palco di Grant Park? Quale sarà la messa in scena? Sicuramente poi ce ne saranno due di messe in scena, no? Preparate, una di un tipo, una dell'altro, ma qual è il programma? Il programma è che a un certo punto nella notte, nelle speranze degli organizzatori con cui ho parlato questa mattina, ci sarà a un certo momento una concessione di John McCain, del candidato repubblicano. In genere la prassi, diciamo, vuole che sia il perdente che per primo vada a parlare al pubblico e conceda la vittoria dopo aver fatto una telefonata. Già immagino di nuovo, supponendo che vinca Barack Obama, quale sarà più o meno, diciamo, la dinamica degli eventi. Barack Obama, per primo John McCain apparirà davanti al pubblico e dirà: ho appena chiamato Barack Obama per congratularmi con lui per la sua vittoria. Una mezz'ora dopo, un 20 minuti dopo, apparirà Barack Obama dicendo più o meno le stesse cose, parlando al suo pubblico. Ci sono 65.000 persone che hanno già avuto i biglietti per entrare dentro il parco, dentro la zona dove ci sarà l'evento, ma ci si aspetta che ci sarà una folla straordinaria fuori dal recinto, fuori, certo, dal parco, a celebrare questa vittoria per il Partito Democratico e naturalmente per Chicago e per l'Illinois. Ecco, Chicago, tra l'altro, città con una grande comunità nera. Sui siti informativi, su CNN, Fox, si legge anche di un certo, per ora così tenuto sotto controllo, ma allarme da parte delle forze di sicurezza, delle polizie di alcune località. Si lascia capire che potrebbe essere un timore di disordini o qualcosa del genere se gli esiti non confermassero certe aspettative. Esiste qualcosa del genere anche lì in città, a Chicago? Ma guarda, ti dirò che per ora io qui, per quel che ho visto, la situazione è molto tranquilla. Tranquilla. C'è naturalmente il timore che possano esserci dei disordini nel caso Obama dovesse perdere, dopo essere stato sempre avanti, proprio perché mentre i repubblicani si aspettano in qualche modo di perdere, sono pronti, rassegnati alla sconfitta, i democratici non lo sono, sentono di avere il vento in poppa, sentono di avere un candidato che ha condotto una campagna perfetta, l'emancipazione per gli afroamericani è straordinaria, proprio nei giorni in cui sono stato in giro nei quartieri neri, trovavo gente che era assolutamente estasiata, guarda Barack Obama quasi come si guardasse a un santo, all'uomo che gli può dare davvero un futuro, una prospettiva, lo sganciamento dall'idea della sottomissione, dall'idea di essere figli di schiavi, non lo saranno più perché quest'uomo è andato alla Casa Bianca. Ebbene, se tutto questo dovesse crollare, beh, la delusione, potete immaginare che tipo di delusione ci sarà. E quindi il rischio c'è, il rischio è presente, però credo che qui in Illinois, ma come in altre parti del paese, ci sia già una mobilitazione predisposta per evitare, nel caso disordini, una degenerazione degli scontri. Cerchiamo, direi, di essere ottimisti, certo, in certo. questo momento, proprio perché è un momento poi straordinariamente bello per l'America, perché è stata una corsa, vedi, è stata una corsa questa davvero epica sotto ogni punto di vista, una corsa che se la ripercorriamo da quando è cominciata 21 mesi fa ad adesso non ha precedenti davvero nella storia americana. Ripensiamo ai momenti più importanti, non so, le lacrime di Hillary Clinton nel New Hampshire, l'arrivo della Palin, il ruolo di queste donne, Barack Obama che raccoglie cifre record, 600 milioni di dollari, insieme i due candidati hanno... Quel grande discorso sulla razza pronunciato a Filadelfia a marzo, che secondo me resta un momento, esatto, un momento altissimo. Ci sono una serie di cose che rendono questa corsa epica, senza precedenti in America, e quindi tutti così la stanno vivendo questa giornata, che chiuderà, comunque vadano le cose, chiuderà questo straordinario capitolo epico della politica americana, la stanno vivendo con entusiasmo. Le code questa mattina sono partite alle 5, alle 6 del mattino, la gente in coda col caffè. Qui ha votato già Barack Obama e Michelle, sono già andati al voto in questa scuola elementare non lontano da qua, vicino alla Chicago University, dove loro abitano, hanno votato in una scuola elementare, queste macchinette bianche, insomma, grande entusiasmo, grande passione, ma devo dirti per ora, da quel che vedo, anche grande calma e grande dignità. Senti, nel salutarti ti riporto tra i tanti messaggi, molti dei quali indirizzati anche a te personalmente, uno di un nostro affezionato ascoltatore che si chiama Dan, che dice: se Platero, che ha grandissimo fiuto, è a Chicago, è buon segno. Insomma, sei andato dove c'è la notizia, Mario? Sai, sono andato anche dove c'è la storia, perché comunque vadano le cose, sia che vinca che perda, comunque la storia è Obama, è il primo candidato afroamericano che riesce a vincere la nomination del Partito Democratico, comunque vadano le cose, già una pagina di storia è stata scritta, e quindi credo che fosse giusto essere qui nel posto dove comunque l'America ha fatto uno straordinario passo in avanti, 50 anni in avanti, non 5 anni in avanti, rispetto a quello che chiunque potesse immaginare soltanto 2 o 3 anni fa. Grazie Mario, spero di sentirti domani naturalmente per fare a quel punto anche alcuni ragionamenti di consuntivo. Buon lavoro a Chicago, al Grand Park, dove Mario Platero passerà la serata, la nottata, seguendo insieme agli americani l'evoluzione del voto. Io vi ricordo che nella puntata speciale di questa sera di Jefferson Ming, nello speciale elettorale americano, avremo anche delle linee verdi su cui, attraverso le quali potremo parlare con voi. 800 24 00 24, il numero è sempre lo stesso, potremo raccogliere i vostri pareri, le vostre domande, le vostre osservazioni. A quel punto poi si sarà veramente alla vigilia della chiusura dei seggi. Continuano ad arrivare messaggi e notizie, ne daremo conto tra poco. Tra l'altro, come sapete, c'è stato già un seggio, anzi due seggi che hanno chiuso, due minuscoli, piccolissimi paesini del New Hampshire che si chiamano Dixville Notch e Arts Location, proprio villaggetti da poche anime. A Dixville Notch Barack Obama ha fatto piazza pulita, ha vinto le elezioni locali con 15 voti contro 6 a McCain ha votato il 100% degli aventi diritto. A Arts Location Obama ha vinto 17 contro 10 su McCain, ma qui credo che abbiano preso dei voti, che credo che abbia preso voti da devo controllare, comunque credo ci fossero altri due voti e non credo per Nader, ve lo so dire tra un po'. Comunque questi sono naturalmente aneddoti, i grandi numeri arriveranno tra circa 10 ore, diciamo, da adesso. Some people think we don't have the right to say it's my country. Before they give in, they'd rather fuss and fight than say it's my country. I paid 300 years or more of slave driving sweat and welts on my back. This is my. For me to go second class. We've survived the hard blow, and I want you to know that you'll face us at last. And I know you will give consideration. Shall we perish unjust or live equal as a nation? This is my country. Elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. Some of you heard that my grandmother, who helped raise me, passed away early this morning. Almeno non si dirà che era un bluff, no? Il viaggio alle Hawaii fatto qualche giorno fa, nello scorso weekend, da Barack Obama per andare a trovare la nonna, perché si diceva in fin di vita è morta la nonna di Barack Obama, la donna che in realtà, Madeleine Payne Dunham, il suo nome, 86 anni, che è responsabile per buona parte dell'educazione e della crescita adolescenziale di Barack Obama. Lo ha detto ieri Barack nel corso di un comizio, in un asciutto comunicato che ha scritto a quattro mani con la sorella, che si chiama Maya Soetorong. E con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di nostra nonna, spirata in modo tranquillo dopo la battaglia contro il cancro. Viene definita la donna, la pietra miliare della famiglia, una donna di grande talento, forza e umiltà, la persona che ci ha incoraggiato e consentito di fare le scelte che abbiamo fatto. Anche John McCain si è unito al lutto dell'avversario con le parole sue e di sua moglie Cindy. I nostri pensieri, le nostre preghiere sono con lui in un momento in cui ricordano la vita di una persona che ha avuto un impatto così profondo nella sua esistenza. Del resto non è mai mancata la cavalleria in questa campagna elettorale, ci sono stati colpi bassi, ma sinceramente, detto a posteriori, detto mentre le urne sono aperte, assai meno di quanto si potesse pensare, tanto più in relazione con quello che diceva Mario Platero poco fa, ovvero col fatto che comunque c'è un uomo politico di colore a un passo, forse a mezzo passo dalla dalla Casa Bianca. Questo rappresenta un fattore di progresso, una iniezione di civiltà in America, ma non solo in America. Sentiamoci coinvolti da questo dato di importanza assolutamente storica. Invece, per tornare a cose assai più banali, si rompono, caro Emiliano, le macchinette del voto americane, che già a me, devo dire, a vederle, quelle con quella come si dice, fanno un po' paura. C'hanno quel riparino così per votare nascosti sotto, che come Homer non vedi per chi voti e sbagli bottone. Ma comunque si rompono, ci sono segnalati un sacco di rotture in Virginia, New York, New Jersey. Poi gli americani su queste cose non speriamo perdonano. Speriamo non si arrivi allo stallo della Florida di 8 anni fa. Se sei americano e te si rompe la macchina elettorale e chiami ispettore, devi venire lì, gli pianti una grana. I più grandi piantatori di grane del pianeta comunque arriveranno lo stesso in fondo al voto. Abbiamo un po' di informazioni tecniche, vero, per seguire? Sì, beh, oggi lasciamo da parte, diciamo così, la rassegna stampa cinese. Insomma, oggi tutto il mondo guarda all'America, anche la Cina, perché in realtà c'è una nota del Ministero degli Esteri cinese che dice di guardare con attenzione alle imminenti elezioni elettorali. Naturalmente non si sbilancia, dice chiunque vincerà, speriamo che i rapporti tra Cina e Stati Uniti rimangano sempre attivi. C'è un sondaggio che ha fatto il China Daily, secondo il quale comunque il 75% dei cinesi intervistati voterebbe per Obama, quindi anche all'estero Obama dovrebbe vincere nettamente. Vediamo poi se i sondaggi verranno rispettati nella realtà dei fatti. Possiamo un po' annunciare quello che dovrebbe essere il timing, la scansione poi della chiusura dei seggi, che può servire per orientarsi per chi vuole fare la notte elettorale qui dall'Italia. Se tutto andrà come deve andare, se non ci saranno problemi con le macchine elettorali o con le code ai seggi, all'una di notte ora italiana chiuderanno i seggi di alcuni stati, tra cui per esempio la Virginia, che è piuttosto importante, chiave, insomma, uno storico feudo repubblicano che potrebbe passare nelle mani di Obama e quindi segnare forse la strada per un successo del candidato democratico. Poi già all'1:30 chiudono Ohio, anche qui stato capitale, nessun candidato repubblicano è mai diventato presidente senza vincere l'Ohio, quindi forse se Obama vincerà l'Ohio potremmo dire che la partita sarà veramente chiusa. North Carolina, altro stato fondamentale, e la West Virginia. Poi via via si prosegue, alle 2 c'è già un bel pacco di stati che c'è il pacco chiudono. Decisivo in c'è realtà, la Florida, c'è la Pennsylvania, c'è New Hampshire, insomma ce ne sono di importanti. Credo di aver capito la sensazione che, insomma, se Obama vincerà alle 2-3 di notte italiane, se McCain tiene botta andrà avanti con l'alba. Hai ragione, il West è talmente spartito, è talmente assegnato, è sicuro, rosso e nel West ci metto addirittura il Texas, che tutto è meno che West, ma insomma quella parte d'America è assegnata, quei voti elettorali sono già sistemati e piazzati. In realtà veramente l'ora chiave è le 2 di notte, ma come diceva adesso Emiliano, già nella tornata precedente, che è quella della 1:30. Dunque, l'1:30 c'è l'Ohio, North Carolina e West Virginia. Si avranno delle certezze e in teoria già all'una si avranno delle indicazioni molto precise. Poi sappiate che gli exit poll escono in 3 minuti dalla chiusura dei voti. Però gli exit poll hanno già fatto brutti scherzi. Ma al tempo stesso gli exit poll fanno brutti scherzi, e di conseguenza poi ci si riproietta sulla mattina invece di domani per avere dei numeri reali, ovvero dei voti scrutinati. Comunque poi quando saremo in onda questa sera dalle 22 avremo tempo per ricostruire meglio questa scansione della chiusura dei seggi. C'è per esempio una pagina molto interessante, ne parleremo questa sera, di Newsweek, dove sono stati fatti tutti i calcoli degli scenari possibili, se McCain vince la Pennsylvania, se Obama vince l'Ohio, insomma, per capire quando si potrà dire che veramente i giochi sono fatti. Poi c'è anche molto ragionamento sulla questione della valanga. Allora, Obama è favorito da tutti i polls, da tutti gli addetti ai lavori, e c'è una specie di discorso in sottordine. Sì, ma se vince, che vittoria sarà? Una vittoria lì testa a testa o una vittoria a valanga? Oggi per esempio si è espresso in questo senso uno che la sa lunghissima, ma che potrebbe anche però parlare in tono così un po' superstizioso, che è Karl Rove, l'uomo che ha guidato le due campagne di George W. Bush. E che non ha guidato McCain, ha mandato uno dei suoi ragazzi a guidare McCain, ma dopo c'è anche per il 2012 c'è anche un po' discusso, e lui ha fatto i suoi numeri, ha espresso con chiarezza, ha detto qui vince questo, qui vince quest'altro, e ha dato 311 voti dei grandi elettori a Barack Obama, dando in realtà la famosa vittoria a valanga, che viene calcolata sopra il 300. E qui si citano le vittorie di Reagan debordanti degli anni 80, insomma. Poi tra l'altro, se Obama vincesse, potrebbe trovarsi anche la maggioranza democratica al Congresso e al Senato, quindi ci sarebbe forse anche l'ipotesi del cappotto da prendere. Tanto, forse troppo, un Senato 60-40 non permette più lo ostruzionismo della minoranza, ma su queste cose poi insomma parleremo e ragioneremo nei prossimi giorni. Però quello che dice Carrovi io lo sto sempre a sentire con attenzione. Sentiamo anche che cosa ha detto nel suo ultimo comizio a casa sua in Arizona, John McCain. My friends, this campaign is all about three things: reform, prosperity and peace. And I want to tell you, we will reform the way government does business, and I will veto every single pork barrel earmark bill that comes across my desk. You will know their names. I will make them famous. È un grido alla sua natura di grande indipendente, di grande conservatore, ma anche di grande indipendente. Io vado a Washington a fare il presidente per rappresentarvi, per non abbandonarvi mai, per fare pulizia. Ripeto, poi la decenza è stata una parola d'ordine importante in questa campagna elettorale. Vi è sembrata una campagna elettorale decente? Potete dircelo. 349-238-6666. Vi è sembrata una campagna elettorale interessante da cui ricavare spunti di riflessione non solo per l'America ma anche per casa nostra? Comunque se McCain dovesse vincere, veramente altro che sette vite, sarebbe una rimonta sorprendente, certo. E poi la beffa per tutti i sondaggisti. C'è invece una mail molto interessante, poi questa sera abbiamo anche qui un bel pacco di mail a cui risponderemo. Gli ascoltatori, soprattutto quelli fedeli della prima ora, sono commossi come noi, che hanno seguito questo lungo viaggio di 21 mesi che ci ha portato a questa fatidica giornata del 4 novembre. Però ci ha scritto in corsa proprio pochi minuti fa Giovanni, che chiede, Stefano, se mai lo scrittore Cormac McCarthy, grande scrittore di Un paese per vecchi che vive chiuso, recluso meglio dire, certo, forse in un ranch del Texas se non sbaglio, andrà mai a votare e per chi in caso il nostro McCarthy? Ma secondo me non ci va a votare, discorso che ha fatto ieri Platero quando ragionavamo sul fatto che comunque se oggi va a votare qualcosa sopra il 60% degli americani è un risultato eccezionale, se ci va il 64% di cui parlano gli ottimisti siamo oltre l'eccezionalità, e l'altro 36% come riesce a evitare di stare sotto l'ombrello di queste spegne elezioni? Il televisore. In parte, come diceva Mario, è un'America talmente sommersa, talmente povera e distaccata, che magari non parla neanche inglese o che magari è completamente ormai avulso dal procedimento sociale, e cose su cui ragionare queste. Non è solo un paese che luccica, insomma, l'America, da disinteressarsi delle elezioni. Poi ci sono gli spiriti indipendenti originali come il McCarthy che citi tu, che secondo me non vanno a votare perché Washington è troppo lontano, no? Il Texas sono la contea, localismo, ci arrivano veramente un sacco di messaggi, molti si preoccupano se andiamo avanti dopo le elezioni, sì andiamo avanti tranquilli, oppure il mondo peggio, si ferma, peggio per voi, non si ferma il mondo, non si ferma neanche Jefferson Ming. Presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. While Toledo police stress they have no specific information indicating there could be problems after the elections, they're preparing for the worst. So officers will be taking home riot gear. E quante ne succedono a Toledo, questa cittadina minuscola dell'Ohio, che ha dato, non so, i natali, ma comunque il certificato di residenza all'ultimo eroe americano da un mese a questa parte, anzi, l'americano più noto e chiacchierato, Joe l'idraulico. Tra l'altro, stamattina ho visto una intervista da Larry King di Joe l'idraulico, che ormai parla come un consumato uomo politico, e tra l'altro va a farsi intervistare da Larry King con la stessa maglietta di noto marchio sportivo, quello con la virgola, non so come si chiama, lo Swoosh, con cui aveva interrogato lui Barack Obama fermandolo per strada. O ne ha tante o ha preso la sponsorizzazione. Insomma, potremmo chiederlo a un ospite che so essere ora in linea con noi, mentre rassicuro dai tanti, tantissimi che ci stanno scrivendo, stasera risentiremo Chicago, avremo collegamenti con Chicago, vedremo che succede per strada attorno al Grand Park. Caro Pietro Paganini, presidente di Competre, il think tank italiano che elabora strategie per il libero mercato, nonché amico di Jefferson Ming e docente di management alla John Cabot University di Roma. Ma tu che sei esperto di queste cose economiche, ma com'è che Joe the Plumber da Larry King aveva la stessa maglietta che aveva il giorno che ha fermato Obama? Che ha fatto? Ha già beccato la sponsorizzazione? Ha una maglietta sola? Come la vedi tu? Questo non lo so, se hanno una maglietta sola, credo che se ne possano permettere due, almeno loro, nonostante la crisi finanziaria. Forse è un momento di scaramanzia, adesso non so se ne avete parlato in trasmissione, io stavo facendo lezione e ho appena finito, quindi non so di cosa avete parlato. Quello che so è che c'è tensione in questi giorni, poi mi sono aggiornato sempre con il nostro Emiliano, soprattutto sui dati, sugli humors. Ancora stamattina c'erano, come immagino avevate già annunciato, code chilometriche, certo, soprattutto in Virginia, più di 2 ore per riuscire a cast the vote, no? Quindi certo, a imbucare il voto. C'è tensione e c'erano molti, mi dicevano, con le magliettine proprio di Obama e le spillette di Obama anche in fase pre-voto. Per alcuni era un atto eccessivo, per altri invece era la dimostrazione che Obama ha conquistato il pubblico non solo a livello politico ma proprio anche a livello di immagine e di quasi sottocultura, cioè ha creato un immaginario, un'icona Obama. Però se posso rubare pochi secondi, a prescindere da quelle che sono le paure del voto, ormai c'è tensione nell'aria, come si dice, anche se pare che il risultato sembri scontato, questo almeno è quanto risulta dall'ultime analisi, e pare scontato anche il risultato sul Senato, che crea sconforto nei repubblicani. Sì, di questo voglio parlare poi con te, ma vai avanti. No, stasera soprattutto a Roma, non so a Milano, ma a Roma ci sono diverse feste, certo, e ce n'è una in particolare, quella organizzata dall'ambasciata americana, in cui interverrà naturalmente l'ambasciatore, e potrebbe essere, anzi quasi sicuramente, sarà l'ultimo intervento dell'ambasciatore Ron Spogli qui in Italia, e credo che un tributo, soprattutto noi amici di Jefferson Bing, vada fatto, perché è stato, devo dire, un grande ambasciatore che ha cercato di portare una cultura imprenditoriale in Italia, la cultura del venture capital, la cultura di business, modello Silicon Valley, con ottimi risultati, anche con momenti difficili, se ricordiamo per esempio il caso AT&T, ma sicuramente ha dato un enorme contributo al paese, che è anche stato l'Italia, il suo paese, o meglio il paese natale dei suoi genitori, e oggi potrebbe veramente essere il suo ultimo importante intervento. Beh, tu ci sarai, ne faremo sicuramente un collegamento, no? Più tardi, Pietro. Sì. Questo dovrebbe essere il programma. Mi piacerebbe girare un po' tutte le feste. Purtroppo il tempo a Roma non credo stasera permetta. Non voglio parlarne, per favore, vedo dalla finestra. Senti, ma invece diamo una informazione in più agli ascoltatori, perché forse in pochi hanno per ora capito che, nel caso la valanga democratica prenda davvero forma, questa America 2009 forse più che l'Obama Nation rischia di diventare la Pelosi Nation. Esattamente. Con addirittura un Senato dove neanche si discute più, si fa così, basta, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, arrivederci, grazie. Vogliamo spiegare un po' come un rafforzamento troppo massiccio potrebbe alla fine creare veramente alcuni imbarazzi, se non politici, almeno di atteggiamento internazionale all'America? Sì, sicuramente, guarda, la paura soprattutto che emergeva ieri, testimoniata anche da un fatto che alcuni repubblicani di aree particolari come, non so, l'area libertaria, come Ron Paul, pare, ripeto, pare abbiano invitato i propri elettori a non votare per McCain, o meglio, a votare scrivendo sulla lista Ron Paul o scrivendo altri nomi, e pare che oggi in tanti supporter del movimento libertario abbiano scritto poi effettivamente Ron Paul sulle proprie schede. Questo è testimonianza di un'azione politica per cui, sai, siamo arrivati alla fine, non vince McCain e quindi è bene fare il nostro calcolo politico e dimostrare all'America, soprattutto all'America repubblicana, quanti siamo. Certo. L'altra grande paura è, come anticipavi tu, da parte repubblicana, non è tanto la vittoria di Obama in sé, per cui secondo molti repubblicani Obama è molto più moderato di come poi sia dipinto dai media. Quindi molto più moderato di Nancy Pelosi soprattutto. Questo sicuramente. Quello che gli spaventa è la presenza di un congresso e soprattutto di un senato che per 2/3 è democratico, che significa sia sulle questioni economiche, sia sulle questioni di politica internazionale, e in questo ci mettiamo Iraq e Afghanistan, ma sulle politiche economiche, che sono poi quelle che interessano davvero l'America, la questione sanitaria, per esempio la spesa sui farmaci, sono questioni che potrebbero passare senza un vero e proprio dibattito, un vero e proprio scontro politico. Cioè... Pietro, ti devo fermare perché siamo proprio in chiusura. Sono temi che riprendiamo stasera e comunque ci sentiamo in collegamento dalla festa dell'ambasciatore Spogli, d'accordo? Grazie a voi, buon pomeriggio. Tempo tiranno in una giornata così, ma avremo modo di rifarci dalle 22 alle 24 se avete voglia di sonorizzare le vostre elezioni con Jefferson Ming. Saremo qua e poi sarà qua Radio 24 per tutta la notte, fino mattina compresa, per seguire l'evoluzione del voto in una grande iniziativa speciale dedicata a USA 2008. Sarà anche il numero per le dirette, 800 24 00 24, prenotatevi, parleremo insieme. Questo è Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Fabio Cantatori. Jefferson Ming è radio24.it e la mail, a stasera alle 10 e occhio alle elezioni. Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.